A bordo campo di Dario Ricci. Ospite davvero d'eccezione oggi a Radio 24, qui a bordo campo, perché prime pedalate del Giro d'Italia, e allora non potevamo non coinvolgere nel discorso sul nostro ciclismo chi di questo ciclismo è il timoniere dall'ammiraglia della Nazionale Azzurra. Benvenuto Paolo Bettini. Buongiorno, grazie. Allora Paolo, Giro d'Italia che parte, cosa ti aspetti dalla Corsa Rosa di quest'anno, la corsa dei 150 anni dell'Unità Nazionale? Chiediamo anche tanto spettacolo e tante emozioni quest'anno, eh? Ma io credo che il percorso c'è tutto, come del resto sempre, l'Italia offre grandi percorsi, gli organizzatori hanno saputo mettere insieme per i 150 anni un percorso tosto, difficile, spettacolare. Ci saranno tante tappe, non solo le ultime sulle Dolomiti, ma tante tappe in giro per l'Italia molto molto interessanti. La rosa dei favoriti, Alberto Contador è il numero uno, ma chi invece può strappargli questa maglia rosa che sembra quasi predestinata sulle sue spalle? Ma Contador attualmente è l'uomo delle grandi corse a tappe, lo ha dimostrato, si presenta sempre per vincere e lo fa, non è che lo promette e basta. Ce ne sono tanti, quest'anno soprattutto al Giro ci sono tanti pretendenti, ma fortunatamente ne abbiamo anche due di casa nostra che credo daranno filo da torcere a tutti gli altri, parlo di Nibali e anche di Scarponi un po' più esperienza, perché ha qualche anno in più. Vincenzo si è dimostrato lo scorso anno competitivo su questo tipo di gare, facendo podio al Giro e vincendo la Vuelta, pertanto ci aspettiamo grande spettacolo anche da loro. Non ci sarà chi invece la maglia rosa ancora formalmente l'ha sulle spalle, cioè Ivan Basso, che ha scelto di puntare tutto sul Tour 2011, una scelta che condividi. Ormai nel ciclismo moderno diventa davvero difficile fare due grandi corse a tappe ad altissimo livello? Ma io credo che sia giusto così, bisogna rispettare le scelte che ha fatto Ivan e ha fatto la squadra. D'altra parte sono due grandi campioni, Nibali e Basso. Nibali è il giovane, è giusto che abbia il suo spazio. Ivan da canto suo il Giro lo ha già vinto e rivinto, ma gli manca questo Tour, gli manca il Tour che può provare sicuramente a vincerlo, ha tutte le carte in regola per farlo e fa bene a concentrarsi sulla gara di luglio, anche se credo a tanti tifosi italiani mancherà, però bisogna condividere questa scelta. Paolo, dicevamo del percorso del Giro d'Italia, quali sono i momenti decisivi? Quali potrebbero essere le tappe decisive, i punti di svolta della corsa? Ma sicuramente le Dolomiti hanno un ruolo importante, ma come dicevo anche prima, quest'anno il percorso è bello tutto, nel senso che non ci sarà troppo da dormire in gruppo. C'è una tappa, la tappa che parte vicino a casa mia, da Piombino arriva a Orvieto. Ho parlato con alcuni atleti che sono andati in ricognizione, mi parlano di una salita, ma soprattutto una discesa molto tecnica, sterrata, molto difficile. Pertanto, ripeto, non ci sono tappe banali. Andando a sud, la tappa dell'Etna, una tappa lunga, difficile, con un arrivo inedito. Sono queste un po' le giornate, e non solo, che renderanno difficile il cammino per chi vorrà vincere questo Giro d'Italia. Quali indicazioni possono arrivare da una gara a tappe come il Giro, anche in chiave azzurra, e cosa vuol dire per te seguirlo con l'occhio particolare del commissario tecnico? Tanto, si riesce a capire molto, se non dagli uomini che fanno classifica, perché comunque hanno attitudini particolari, soprattutto pensando ai mondiali di quest'anno e ai prossimi appuntamenti, ma guardando la corsa, guardando lo svolgimento delle tappe, guardando tutti i 3.000 più chilometri, si vanno a cercare tutti quegli atleti che hanno fondo, che sanno lavorare, che sanno mettersi a disposizione, che sanno essere pedine fondamentali che all'interno di una nazionale potrebbero veramente diventare la chiave per la buona riuscita di una gara mondiale. Forse dal Giro emergono più i gregari, no, che le punte. In chiave mondiale, essendo poi quella la classica, servono forse più ed emergono di più gli uomini che sanno mettersi al servizio poi del grande finisseur. Assolutamente sì, sai, gli uomini di classifica hanno il loro compito e sappiamo tutti quello che devono fare. diventa interessante vedere tutto il resto del gruppo. I grandi giri sono corse molto particolari, sia il Giro, Tour e Vuelta nascondono all'interno tante gare che sono quelle per le classifiche parziali, per gli arrivi di tappa, per i lavori che ci sono, per gestire i finali, per un eventuale arrivo in volata. Pertanto ecco, diventa interessante andare a studiarsi questi lavori che sono magari non sono nemmeno ben visibili all'occhio del grande pubblico, perché è concentrato su alcuni atleti, e diventa interessante andare a seguire tutto questo discorso per in funzione di un gruppo che si deve creare, che è quello che poi rappresenterà l'Italia. Tra i giri a cui hai partecipato, qual è la tappa, la giornata che hai nel cuore, Paolo? Ah, sicuramente Tropea, la prima tappa in linea del Giro 2005, perché dopo tanti anni sono riuscito sia a vincere la tappa, e di tappa il Giro non ne avevo vinte fino lì, e in un colpo solo a mettere anche la maglia rosa. Pertanto è stato sicuramente uno dei giorni più belli che ho trascorso sulle strade del Giro d'Italia. Beh, ti immagino qualche serata sdraiato sul divano che ti rivedi quelle immagini, no? Ah, capita, posso dire, da ex ora mi diverto anche a riguardare i video. Prima non avevo il tempo, ci vado a pensare a correre, ci vado a pensare agli obiettivi di stagione, di settimana in settimana. Adesso sono più tranquillo, mi riguardo anche le vittorie. Ex campione sulla strada, ma impegnatissimo, dicevamo, come CT della nazionale. In quest'ottica mi sembra molto interessante l'esperimento che stai varando, cioè quello di creare una nazionale capace di incontrarsi non solo in occasione del grande appuntamento mondiale o olimpico che sia, ma che possa incontrarsi più volte durante l'anno, e anzi hai proposto anche di ritornare a una nazionale che possa addirittura iscriversi e partecipare alle attività e alle gare del calendario internazionale. Credi che questa sia una strada effettivamente percorribile? Attualmente per ora sì, diciamo l'approccio è buono, c'è grande collaborazione anche con i team, con le squadre di club, e questo è importante, anzi vanno sempre ringraziati, perché senza il loro aiuto difficilmente si prosegue in questo progetto. È importantissimo perché la nazionale di ciclismo storicamente vive e si raduna per l'evento importante che è il campionato del mondo, e ogni 4 anni da poco, due volte l'anno con l'evento olimpico. Diventa importante perché si riesce a parlare con i ragazzi, ci si confronta, si crea il gruppo non si può creare per telefono, non si può creare rubando 2 minuti a una partenza di tappa o la vigilia di una gara, ci vuole confronto, bisogna condividere gli obiettivi, bisogna partecipare a un progetto, e questo si può fare solo se ci si trova più di una volta. Primo raduno credo sia andato molto bene, sono rimasti contenti anche i ragazzi, mi sto impegnando per fare un secondo raduno fuori dalle competizioni e poi continuare su questa strada, cercare di fare anche un qualcosa pedalato, nel senso radunare la squadra e correre al di fuori dell'evento mondiale. Quest'anno oltretutto ci viene più facile, perché a metà agosto parteciperemo con una squadra di 5 atleti sul percorso delle prossime Olimpiadi, c'è questa preolimpica, questa gara test, andremo a farla, pertanto anche quello è un momento molto importante. Beh, non a caso, insomma, è inutile che io qui ricordi tutto il tuo palmarès, dai mondiali alle Olimpiadi, però tu proprio hai ricordato più volte come la vittoria olimpica di Atene 2004 sia stato il successo più bello in carriera. Ma è il più importante, io dico il più importante, belli tanti, è importante perché da atleta, indipendentemente da quale sport, da quale disciplina, ma da atleta vincere una medaglia olimpica credo che sia il massimo. Non lo dico perché ho la medaglia in mano, ma lo dico perché ho respirato aria olimpica in 3 occasioni, Sydney, Atene e Pechino, e posso garantire che è così. Anche gli sport più importanti, più conosciuti, ma quando si entra nel villaggio olimpico si respira un'atmosfera completamente diversa e è un sogno, credo che sia veramente un sogno per un atleta. Ecco, sulla strada verso Londra 2012, che nazionale hai in mente, se non negli uomini, quantomeno nella filosofia, anche rispetto al percorso? Che tipo di percorso andrete ad affrontare e che tipo di gara ti immagini? Ma allora, bisogna dire che intanto tra costruire una nazionale per un mondiale e costruirla per un'Olimpiade è completamente diverso. Sono due squadre completamente diverse, perché alle Olimpiadi si corre in metà, nel senso che la nazionale mondiale è composta da 9 atleti in gara, alle Olimpiadi si corre in 5. In 5 è molto difficile gestire una gara di 220 km, ci vorranno... Per le prossime Olimpiadi sarà importante il test di agosto, ma ci vorranno uomini comunque veloci, perché il percorso non è impossibile, uomini di fondo, uomini che hanno mestiere, che sappiano gestirsi da soli in gara, perché il lavoro di gregariato non ci dovrà essere, dovranno essere 5 uomini importanti che all'occorrenza diventano fondamentali tutti anche per un eventuale ricerca del risultato. Paolo, allora in bocca al lupo per questo Giro d'Italia, per il prossimo mondiale e soprattutto direi anche per l'appuntamento olimpico, perché sappiamo quanto pesino queste medaglie per tutto lo sport italiano e per il ciclismo in particolare, e grazie per essere stato ospite di A Bordo Campo. Grazie a voi, a presto. A Bordo Campo. Svolta storica alla guida dell'Asso Calciatori, il sindacato che riunisce tutti i calciatori italiani. Dopo 43 anni l'avvocato Sergio Campana, che dell'Asso Calciatori è stato uno dei fondatori, lascia la presidenza. Il nuovo presidente, nuova guida dell'Asso Calciatori, sarà un ex grande del nostro calcio, ex della Roma, del Verona e della Nazionale Azzurra. Benvenuto a Bordo Campo a Damiano Tommasi. Buongiorno Damiano, più l'emozione o la responsabilità che si sente addosso nel ricoprire un ruolo tanto importante dopo quello che è stato di fatto l'ideatore, il padre dell'Asso Calciatori? Sì, in realtà è più orientato a questo evento la mia attenzione ora. Non sono ancora nell'ordine delle idee che il successore sia io, e la cosa, insomma, la notizia è che Campana ha lasciato le redini ad un altro e ovviamente rimarrà insieme a noi, e spero che si dia una mano con la sua esperienza, ma era anche arrivato forse di dare un cambio di ritmo. Quali sono i primi punti all'ordine del giorno nel lavoro che l'aspetta Tommasi? Perché argomenti tanti e non tutti di facili soluzione, soprattutto per quello che riguarda la prospettiva di medio termine, no, del mondo del calcio, che ha nei calciatori i suoi protagonisti. Il mio primo obiettivo è quello di riuscire a coinvolgere il più alto numero di calciatori possibile in questa idea di associazione, riuscire a far percepire questo al più alto numero di calciatori. Sicuramente un obiettivo che non solo a breve ma anche nel lungo termine avrò e avremo come direttivo dell'associazione. Ecco, Asso Calciatori che aveva in Campana e che sicuramente lo avrà anche in un ruolo diverso il suo emblema, Asso Calciatori che era stata anche fondata da grandi campioni, su tutti ricordo Mazzola e Rivera, tanto per citare due nomi. La sua elezione dà un po' l'idea di un calcio che torna in mano ai calciatori, però, no? Anche se poi Campana di fatto calciatore lo era stato e ideatore di questo progetto lo è stato fin dall'inizio. Inizio. Però insomma il fatto che torni a ricoprire questo ruolo così importante, un calciatore che da pochissimo come lei ha lasciato l'attività e il calcio giocato, dall'idea di un ancora maggiore legame con quello che avviene sul campo, no? Dobbiamo fare in modo che questa idea che si dà con la mia presenza poi si realizzi. Credo che questo non sia semplice da fare, da portare avanti, ma credo che questo sia l'obiettivo. Primo argomento all'ordine del giorno, che almeno mi viene in mente, è quello della riforma dei campionati, no? Su cui l'Asso Calciatori è chiaramente parte in causa, con una posizione contraria alla riduzione o al taglio indiscriminato del numero delle squadre professionistiche. Da questo punto di vista possiamo già individuare una linea di continuità rispetto alla linea Campana, oppure quali possono essere i nuovi scenari che possono aprirsi? il problema della riforma dei campionati è la difficoltà di trovare il giusto equilibrio tra norme restrittive e garanti di una continuità delle società e allo stesso tempo norme che non siano talmente restrittive poi da ridurre drasticamente il numero delle squadre. Le chiedo ancora, nella battaglia per il rinnovo dell'accordo collettivo, che ormai si sta concludendo felicemente e porterà sicuramente la firma proprio dell'avvocato Campana, c'è stato anche la nascita di un sindacato costola, no, rispetto all'Asso Calciatori, l'ANC, l'Associazione Nazionale Calciatori, che ha avuto anche e che ha dei rappresentanti importanti, mi vengono in mente Buffon, l'Atalantino Doni, ecco... Da questo punto di vista si troverà a dover ricomporre questa semifrattura, questa semiscissione, oppure Asso Calciatori, che è l'unica casa, l'unico rappresentante ad aver voce in capitolo per il mondo dei calciatori italiani? L'altra associazione probabilmente non è nata a seguito dell'accordo collettivo, probabilmente è nata prima, ma è soprattutto espressione di un'esigenza e di esigenze che i calciatori hanno, probabilmente credo che sia consapevolezza anche dell'altra insomma, associazione o comunque di questa associazione che è nata, che si è creata, quella di portare avanti una voce comune, credo che sia obiettivo di tutte e due e credo che va cercata continuità con quello che è stato fino adesso l'associazione, insomma, una voce unica e credibile, questo penso che sia nell'interesse di tutti noi. Quindi potrebbe rientrare insomma questa frattura tutto sommato? Potreste lavorare in quest'ottica? Ma sicuramente credo che sia interesse di tutti lavorare in quest'ottica. Le chiedo ancora un altro tema caldo su cui l'avvocato Campana è stato molto attivo in quest'ultimo periodo, ma tradizionalmente direi anche in questi anni, quello delle scommesse illegali, che sta ritornando di stringente attualità. Quali misure avete allo studio, quali misure porterà anche al tavolo delle istituzioni coinvolte per contrastare questo fenomeno? È sicuramente un argomento delicato, è sicuramente un argomento da affrontare, non solo all'interno della società dei calciatori, ma anche all'esterno. È un argomento che va affrontato sicuramente, faremo in modo di affrontarlo, come detto prima, oltre che all'interno, anche all'esterno dell'associazione dei calciatori. Tema dei vivai sempre caldissimo, il calcio italiano sconta da questo punto di vista un ritardo che si sta facendo sempre più significativo. Le era piaciuta l'idea di Prandelli Albertini di schierare l'Under 21 nel campionato di Serie B fuori classifica per far maturare quei giovani che invece troppo spesso appassiscono in panchina? È un'idea che può avere un futuro dal vostro punto di vista? Credo che l'esigenza di Prandelli che è stata portata avanti sia stata dettata soprattutto dagli ultimi dati soprattutto dell'Under 21, dove qualche anno fa i ragazzi che componevano l'Under 21 avevano alle spalle parecchie partite nel massimo campionato e ora invece molto molto di meno, e quindi c'è da chiedersi perché, se è per una politica dei giovani fatta non nella maniera corretta oppure se è per altri motivi. La proposta è comunque l'idea che è stata buttata lì, è stata messa sul tavolo da Prandelli e Albertini, è un'idea che va capita, soprattutto capito l'obiettivo finale che si vuole raggiungere. Damiano Tommasi, ringraziandola per la disponibilità, chiaramente l'in bocca al lupo per il lavoro che l'attende. Ci tolga una curiosità però, sappiamo che nel mondo del calcio diciamo le distinzioni poi tra governo e sindacato sono per alcuni aspetti meno stringenti che in altri ambiti, non è che poi ci immaginiamo un Tommasi alla Platini fra qualche anno? Mi sento calciatore, gioco ancora a livello dilettante, quindi non posso fare altro che pensare a questo per adesso. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, grazie a Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it, anche in podcast, e scriverci alla mail abbordocampo@radio24.it, dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo, sempre sul web. L'appuntamento è per domenica prossima, come sempre alle 14.30, e in replica ogni sabato mattina alle 6.30. Buona giornata da Dario Ricci.